quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Quattro mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Italia, sì, Italia no, Italia gnamme, se famo tu spaghi, Italia sob, Italia prot, la terra dei cachi. Ti ricordi dei ragazzini che truccavamo il motorino? Lo facevamo tutti. Ma quelli della Volkswagen hanno truccato i dati delle emissioni di 11 milioni di automobili? Capolavoro. Germania, chapeau. Germania, chapeau. Ah no, scusa. Povera minoranza del PD, sembrano, sai cosa mi sembrano, Gio? Chihuahua doppiati da orsi. Cioè tu li senti ringhiare nel bosco, no? Dici, oddio, cos'è questa roba? Poi li vedi spuntare e dici, ma baffa. Italia sob, Italia prot, la terra dei Mi sa che è finita così questa vicenda della riforma del Senato. Qualcuno dice che Renzi li ha fatti su tutti per l'ennesima volta. Nella previsione di Crozza, ma anche nella previsione di tutti, insomma, come al solito, questa riforma del Senato, c'è la pace nel PD. Oh, ma sapete che però Calderoli ha presentato quanti sono? 82 milioni di emendamenti. 82 milioni di emendamenti. Lo ha fatto grazie a un algoritmo, grazie a un ingegnere del Senato che dice: ho conosciuto, ma ha svelato un mondo. Ma ha svelato un mondo, in pratica un algoritmo che interpreta il pensiero di Calderoli. Cioè, pensate che algoritmo complicato deve essere, tra l'altro. Vabbè, comunque un algoritmo che, interpretando il pensiero di Calderoli, modificando delle paroline, virgole, spostando, mettendo dei sinonimi, dei contrari, produce automaticamente 82 milioni di emendamenti. Calderoli dice: siamo entrati nella quarta dimensione, siamo entrati nell'iperspazio della politica. L'Italia è questa qua. Giuro, giuro, ha dichiarato questa Repubblica. Italia è viva. Sono le 6:33 minuti e questa è 24 mattino con Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia. È quasi venerdì, ragazzi, è quasi venerdì. State allegri. È quasi venerdì. Siate allegri. Movimento nel rigore, parte il cross di Sottimo, il colpo di testa. Ha pareggiato il Frosinone. No! Ha pareggiato il Frosinone allo Juventus Stadium. Blanchard. No. Stando sotto una bandiera giallo blu. Marione Adinolfi, no! Ma siete cattivi però, sai cos'è, sai cos'è questo? L'inno del Frosinone. L'inno del Frosinone. Senti quanto è brutto, ma senti che roba, dai. Ma come quanto è brutto? È senti, brutto. Ma che è brutto, ma tu sarai brutto. È brutto, brutto, come un gol del Frosinone al 92. Ragazzi, fa, cioè Mario Adinolfi stava alla gabbia, alla gabbia, mentre la Juve beccava gol dall'ultima in classifica al 92. Cioè io avevo senti, Frosinone, Ale! Sarò sempre con te. Sarò sempre con te. Ma dai, è brutto, è proprio Ale, brutto. Ale, Frosinone, Ale. Ma c'è ragione, l'ho detto, ma non dovevo inseriare. Mamma mia, ragazzi. Quest'anno hai perso con la Roma, pareggiato col Frosinone in casa, cioè per te lì. Non posso dire che sì, la regione mia, devo pure andare a presentare il provincia di Frosinone il 10. Il 10, amici di Frosinone, il 10 ottobre c'è Mario Adinolfi a Frosinone a presentare Avatri, per la precisione. Però, insomma, speriamo che i nostri amici siano dimenticati. Vabbè. Allora, no, vabbè, ma non si dimenticheranno di questo punto storico, primo punto in Serie A per il Frosinone, va bene. Allora, caro Marione, devo aprire il Parlamento perché c'è una novità, Chi è l'amico nuovo? C'è un amico nuovo, del Parlamento. Vado a prendere un caffè. Che essendo il Parlamento è il bar più pazzo del mondo, la premessa è questa: si può dire quello che si vuole. È il direttore di oggi, Umberto Brindani. Buongiorno, direttore. Buongiorno, buongiorno. Che ci fai sveglio alle 6:30? Mi avete svegliato voi. Ecco, appunto. Però devo dire che è un grande inizio, perché volevo ricordare, sì, che c'è di peggio oltre al gol di del, sì, Frosinone, cioè? Anche il fatto che io parlo da interista, sì, mamma a uno che si chiama Milan, e c'è anche il fatto che l'Inter ha segnato con Felipe Melo, che se non ricordo male giocava nella Juventus, sì, ma perché non gli chiedi prima di che squadra sono? No, infatti bisognerebbe fare un test d'ingresso. Abbiamo la capolista, l'Inter, porca miseria, che abbiamo testimoniato anche ieri, ha una fortuna, diciamo così, incredibile, quindi vincerete lo scudetto sicuro, direttore. Sì, certo, grazie. Grazie della gufata. Vincerete. Perché ti stanno antipatici i gufi? Anche a te? No. Vanno di moda. Vanno di moda per cui. Vabbè. Allora, Umberto Brindani, direttore di oggi, che sguardo sulla politica avete? Beh, ma voi di politica in realtà tirate fuori. Non gliene frega niente. No, ma che non è vero. No. Ce ne occupiamo, però siamo settimanale, come si dice, popolare. Io ricordo sempre che è meglio essere popolari che impopolari, no? Quindi ci occupiamo di politica cercando di spiegarla alla gente. C'è questa cosa, per esempio, degli 82 o qualcuno dice 85 milioni. Sì, sono 85 in realtà. Perché... Del grande Calderoli, sì. Ce ne siamo occupati anche questa settimana, perché poi bisognerebbe spiegare come funziona questo meccanismo, questo algoritmo, no? Cioè lo spostamento di una virgola da una parola all'altra. E cambia l'emendamento. Esatto, che produce migliaia, poi centinaia di migliaia, poi milioni di emendamenti. È una cosa che produce delle cose che fanno poi a pugni con la lingua italiana, la grammatica e la sintassi. Sì. Mi piacerebbe leggerne qualcuno. Sarebbe bello, ma basta spostare le virgole. Però Marione, tu che sei stato anche in Parlamento, ma che cos'è? Perché Calderoli dice goliardia, ma questi non hanno capito niente, è una partita a scacchi durissima e la vincerò io. Mi la tagliano tutta, sono tutte puttanate, ragazzi. All'intervista sul giornale. Ragazzi, Renzi ha asfaltato tutti, non si può dire, quanti mesi sono che vengo da te a dire che è l'imperatore, è un meccanismo, quelli che devono metterlo in crisi non l'hanno messo in crisi, l'unico problema poteva averlo all'interno del PD, adesso questi stiamo parlando di folklore, cioè pensi che veramente adesso si blocca la riforma del Senato? Ma no, farà scattare... Il presidente Grasso, hanno cangurato, figurati, in una situazione complicata, sicuramente non cancurano. Il canguro, spieghiamo, perché il canguro è non questo... Non spiegare, non dare al nostro pubblico elementi che non capiscono. Noi dobbiamo spiegare. La politica, noi siamo come Massimo Giannini a Ballarò, facciamo informazione, spieghiamo le cose. Il canguro, cosa fa il canguro? Salta il canguro. È quello strumento tecnico per cui si possono bypassare tutti gli emendamenti. Alla Camera si chiama ghigliottina. Ti ricordi Brindani quando ha utilizzato la Boldrini una volta? Successo un putiferio, no? La ghigliottina. Sì. La ghigliottina, il canguro, i chihuahua, gli orsi. Abbiamo uno zoo completo, no? Abbastanza. Però, insomma, questa riforma del Senato, di cui io dicevo non interessa a nessuno... non lo so, questo è il mio parere, ma è un parere forse sbagliato. Però ma guarda, io se posso dire la mia, è una cosa che, come dire, certamente è servita a Renzi, sta servendo a Renzi per, giustamente come dice Adinolfi, per spianare la minoranza del PD e per affermarsi come imperatore d'Italia. Sì. Di sicuro è l'ultima cosa che interessa agli italiani in questo momento. E credo che sia anche l'ultima cosa che gli italiani riescono a capire, cioè anche questo accordo tra la minoranza del PD e la maggioranza del PD sul fatto che alla fine i membri del Parlamento verranno, scelti. Alla fine la parola, diciamo, del compromesso è che verranno scelti dai cittadini, ma non si sa ancora come. Siamo veramente... Non interessa nessuno, vedi, Mario Adinolfi, devi adeguarti. Ma quello è un problema degli italiani, che purtroppo sono di coccio, perché questa riforma è purtroppo fondamentale per la loro storia, cioè gli cambiano 60 articoli della Costituzione gli italiani non ne capiscono niente perché gli italiani sono capre, non perché non sia rilevante, è una riforma rilevantissima ovviamente per l'assetto istituzionale, per come sarà organizzato lo Stato, per la natura stessa della nostra democrazia, ma purtroppo gli italiani, insomma, lui che puoi spiegare cose. Avete capito? Capre ha detto, quindi anche a quelli perché non riesco a capire. No, ma anche a quelli di Frosinone, dove il 10 andrà a presentare lì. Non lo so. Cioè, sai se vai, ma non sai se esci. Ecco, questo quello che mi hanno invitato, questo. Vabbè, dai, comunque la politica è questa. La politica è bella. Perché avrebbe quasi ragione Calderoli, perché è una partita a scacchi e c'è uno solo che ha in mano tutti i pezzi. Che bello. Interessare agli italiani, pensa un po' te, però. Che bello. In realtà gli italiani, per esempio, ecco qua, Brindani, abbiamo Maria Di Nolfi che ha avuto una conversione a un certo punto della vita. Adesso non mi sono mai convertito, sempre stato cattolico. È direttore della Croce, si sa. Ma tu hai capito, Brindani, cosa può essere successo un giorno a Maria Di Nolfi? Francamente no. Ho seguito le sue evoluzioni, però francamente non sono in grado di interpretare. Questa non ce l'ha mai spiegata bene. Però a Mario Di Nolfi voglio fare la domanda che fanno tutti: ma questo Papa è comunista? Perché è la domanda che pongono al Papa, gliela pongono proprio. Ma lei, anzi, allora, gli hanno chiesto anche se è cattolico. Punto A, sì. Non sono convertito, sono cattolico. Fin da bambino ho servito messa a San Giovanni Paolo II. Sono uno che ha sempre fatto nella vita, come al solito, siamo tutti peccatori, diciamo, quindi non è che. Punto secondo, è come con la politica, il Papa va letto. Va letto. Ma approfonditamente, non con la rimasticatura che date voi, facendo. Se uno legge i documenti papali si accorge che il Papa ha totalmente ragione quando dice: sono pienamente, non ho mosso una virgola della dottrina sociale della Chiesa. Dice le stesse cose che ho detto tutti i papi, e francamente se adesso vi interrogassi dicendo: ma qual è la novità dottrinale io sono già in difficoltà da Papa che miseria. Io sto già balbettando. Io non so Brindani che noto frequentatore di parrocchie. Brindani, non è cambiata l'idea di Adinolfi, B non è cambiata manco la dottrina sociale della Chiesa. Scusa Mari, però lui stesso, il Papa, ieri si è definito di sinistrina. Sì, è vero. Non si è definito di sinistrina. Ho detto qualcosa che può essere interpretato di sinistrina. Ha detto così. Lui l'ha usata. Ha detto lui la parola. C'è un'intervista. Ha parlato con i giornalisti. Ha parlato con i giornalisti sull'aereo. E ha detto: mi dico cose di sinistrina. Ma figurati se il Papa può essere ridotto alla posizione destra-sinistra su, ragazzi. Papa è uno che se ascoltasse veramente le cose che ha detto pure ieri. Non lo mettereste mai a sinistra. Poi ha scritto un'ottima enciclica sulle questioni ambientali, e secondo me con cose scritte di buon senso. Poi dopo, se io vi chiedessi qual è la cosa di sinistra che ha detto il Papa, un'altra volta ricominciate. Vabbè, intanto è detto da Fidel Castro, insomma, cosa ha detto di sinistra? È andato pure San Giovanni Paolo II. Tutti Papa Benedetto XVI. San Giovanni Paolo II, attenzione. Mi dovresti spiegare, Mario, com'è che insomma. Sono tutti fedeli alla dottrina sociale della Chiesa. Nessun Papa ha detto niente di diverso da quello che si dice da 2000 anni, però alla fine Ratzinger sta da una parte e Bergoglio sta dall'altra. Ma non è che ce le inventiamo, al di là delle battute. Le divisioni in Vaticano non ce le inventiamo noi. Newsweek ha intitolato addirittura la copertina chiedendosi se questo Papa è cattolico, cioè siamo, come dire, a questo paradosso, no? Quindi vuol dire che non sarà comunista, però, come dire, qualcosa di diverso da quello che ha detto dal grande teologo Ratzinger. L'ha fatto, qualcosa di sinistrina l'ha detto. Vi sto chiedendo cosa, perché se voi leggete anche quel pezzo di Newsweek, o leggete, o mi dite, mi spiegate che Papa Francesco e Ratzinger non si sopportano, cosa che non è vera, però Di Nolfi li frequenta, quindi lui lo sa, effettivamente. È anche una questione di accenti, di toni, Cioè questo Papa, le prime cose che ha fatto sono state due interviste a Eugenio Scalfari, cosa che insomma non credo che XVI avrebbe fatto. Effettivamente. Insomma, ma voglio dire, conta la seconda, ha parlato con Vespa, no? Che vuol dire? Insomma, non è che... Ma è un po' più di destra Vespa rispetto a Scalfari, è quella di sinistrina. Vabbè, dai, qui noi abbiamo la segreteria telefonica, tanto adorata da Mario Adinolfi, e quindi subito dopo il traffico rientriamo con Mariona Adinolfi, con Umberto Brindani, direttore di Oggi, e la nostra segreteria telefonica. Scusa, mio amore, non è che non ti volevo sposare, c'è del traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Allora, Alessandro Milan, secondo te è giusto che un gruppo di profughi vada a giocare a Milanello? O non so, da Piano Gentile? Tanto paga la squadra, o no? Potrebbero farlo tutti i giorni, ospitare un po' di profughi lì, no? Tanto là i soldi da buttare via ce li hanno. Ciao Milan! Meno male che qualcuno ha detto la verità su Marino. Alemán non ha detto niente a nessuno, a lui tutti addosso. Ciao Milan, buongiorno. Volevo solo sapere com'è possibile dare voce a Mario Adinolfi, che se fosse musulmano farebbe parte dell'ISIS. Maronna mia, ma io mi scandalizzo quando dice pubblico di merda, pubblico di merda. Ma perché non cagnolisce e dice politici di merda, politici di merda? Ora, ovviamente non tutti, perché quelli che non sono politici di merda, chi lo sono stronzo. Ecco qui, questa è carina, questa è carina. Bravo, dillo Mario Adinolfi, che la nostra segreteria telefonica è fatta di persone per bene, persone. Dico quasi sicuro che ha tirato fuori la battuta. Pubblico di merda. Eccolo lì. Pubblico di merda. Perché devi sapere, caro direttore Brindani, che Adinolfi da mesi ha una battaglia personale contro il nostro pubblico, definendolo come Moretti nella... Però notare che alla fine di Moretti il pubblico si esalta e applaude lo slogan, ecco, di Moretti, certo. Comunque ha detto l'ascoltatrice, se l'avete capito, che Mario Adinolfi, se fosse musulmano, sarebbe nell'ISIS. Ecco. Non è che fai il segno della croce e vai a messa la domenica. Eccolo lì, quello per il mio ISIS, andare a messa la domenica. Allora, voglio farvi sentire un audio e parlare allora dei tedeschi. Brindani, questi tedeschi, io che ho fondato il partito Chiavi alla Merkel, e attenzione, dico sempre, diciamolo bene, scandiamolo bene, perché si presta a doppi sensi. Chiavi alla Merkel, perché affiderei le chiavi dell'Italia alla Merkel, proprio che ci sistemi tutti quanti. Caro Brindani, adesso sono un po' in difficoltà, però dopo questa... Ho cercato di ricordare anche con i colleghi se in passato ci sono stati scandali che si possono paragonare, no? Soprattutto nel mondo delle automobili, e insomma tutti ci siamo ricordati di grandi ritiri di vetture. È venuta fuori la storia della Mercedes di 15 anni fa, della classe A che si ribaltava, però tutte le case automobilistiche hanno avuto nella storia problemi di errori di progettazione, magari tenuti qui, nascosti. Qui è una truffa, no? Però, qui è ma questo truffa. È un imbroglio pazzesco, cioè, si sono messi di tutto buono per inventare una roba per fregare i test, cioè, una cosa mai vista. No, ma infatti si parla in America, sai, sono esperti di class action, puntano già a 50 miliardi di dollari di class action. Qualcuno dice si potrebbe fare una class action mondiale, però attenzione, perché adesso spuntano tutti in Italia. Oggi sui giornali c'è scritto, allora Il Fatto dice che la procura di Roma già 6 anni fa aveva scritto dicendo guardate che anche in Italia c'è qualcosa che non va. Ora spunta una ricerca dell'università di Urbino nella quale si direbbe che c'è qualcosa che non va e lo sapevano già tutti. Oh Marione, qua intanto per il momento è la Merkel ed è la Germania sulla graticola, La Merkel sapeva. Primo è la Germania e non la Merkel ancora, perché il governo non è stato trovato alcun coinvolgimento. Secondo, aspetto qualche test su case automobilistiche concorrenti, diciamo, rispetto a questi software di controllo, almeno da quello che leggo, per esempio, dalla rivista Altro Consumo, queste denunce erano ricorrenti e non solo nei confronti, cioè, Mario Adinolfi legge la rivista Altro Consumo. Io leggo tutto, sono una capra, capito? Insomma, la rivista Altro Consumo è una importante rivista di consumatori. Sì, di consumatore, per carità. Perché sentite, di questa roba si occupa da tempo e secondo me qualche sorpresina, dopo aver fatto tutti i primi della classe, la troveremo anche Dubbio ce l'ho anch'io. Infatti no. Sentite qua, Maurizio Bianconi, onorevole, che tra l'altro è ospite alle 8.40, uno che, come si dice in gergo, la tocca piano. Di 40 volte maggiori le emissioni, ma se l'avesse fatta a napoletano una cosa così, ne parlerebbe il mondo. Questi hanno imbrogliato le regole del mercato. A Radio Cusano Campus l'avesse fatta un napoletano. Perché un napoletano subito, Brindani? Bianconi, l'avesse fatta un napoletano. Vengono in mente le magliette con la finta cintura di sicurezza. Esatto. Anni fa, no? Però il dato di fatto adesso, al di là di tutto, è una cosa molto molto seria, e Mario Adinolfi dice: ora vediamo le altre case automobilistiche. C'è il sospetto a questo punto diffuso che, se è successo per la Volkswagen, possa essere successo per tutti. Fra l'altro c'è un altro diciamo dato di cui tenere conto, cioè che i limiti alle emissioni in Europa sono molto più rigidi dei limiti alle emissioni negli Stati Uniti, quindi come si dice, se tanto mi dà tanto, e hanno truffato, hanno imbrogliato per rientrare nei limiti americani, chissà cosa succede o cosa è successo, cosa sta succedendo in Europa. Quindi è vero, insomma, potremmo avere altre sorprese, anche se bisognerebbe poi valutare l'impatto che avrà tutto questo realmente sull'inquinamento. Questo non ce l'hanno spiegato. Mi risultano interviste o dichiarazioni di altri capi di aziende automobilistiche in questi giorni. Ah, cioè qualcuno, perché ho capito parlare qualcuno. Il fatto che non parlino vuol dire hanno tutti un po' paura. Stanno tutti perdendo in borsa, hanno tutti perso in borsa, non solo Volkswagen, anche Fiat, anche insomma tutti gli altri grandi marchi hanno risentito al ribasso dello scandalo. Ma appunto per questo, direttore, se io avessi la condizione, diciamo, di essere molto più bravo di questo mio concorrente, lo direi di questo per poi dicendo andate a vedere. E invece il fatto che stiano zitte tutti muti. Vediamo che succede. Vabbè. Allora, io qui mi devo fermare. Vorrei farvi sentire la mitica Miss Italia, che a Striscia la Notizia ha un po' corretto il tiro, dicendo che su quella la vicenda avrei voluto essere una protagonista della guerra mondiale. Sei un po'. Lasciatela stare, Miss Italia. Dai, sentila qua. Sentila qua, di Velletri. Di Viterbo, se lei permette, le do un consiglio. Anche lei. Ha detto una stronzata e la chiudiamo, perché le rifaccio la domanda. Allora, a proposito quindi di questa cosa, lei ha detto una stronzata. Mi piace quando le persone ci hanno però poi ha aggiunto, avendo letto libri di storia al mio mito è Michael Jordan. Vabbè. E allora, non fate i cattivi con la ragazza di 18 anni. Chiudiamo con l'inno del Frosinone. Io ringrazio molto Mario Adinolfi. Ringrazio il direttore di oggi, che trovate ovviamente in edicola da ieri, ma lo trovate anche oggi per l'appunto, Umberto Brindani. Se si è divertito, è ospite quando vuole qui nel bar più pazzo del mondo, il Parlamento. E alla prossima, viva il Frosinone! Che ci fa sognare, Ale, Frosinone, Ale. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Anquo Alessandro Mina e leggerai i giornali come uno che legge i giornali. E che tanti skate 24 mattino. Eccoci, le 7:16 minuti, cari ascoltatori, siamo qui pronti fino alle 9:30 per il penultimo giorno fino alle 9:30, poi rientreremo fino alle 9 a partire dal lunedì prossimo. E che dire, Parleremo di queste iperprescrizioni mediche? Metto il punto di domanda. E le polemiche, lo faremo dalle 9 alle 9.30, le polemiche per il decreto che taglia 208 prestazioni a rischio di inappropriatezza. Annunciato dal governo, ci sono i medici sul piede di guerra e minacciano scioperi, ma è uno dei temi su cui aprono, con cui aprono molti giornali. Poi parleremo di che cosa? Un po' di politica, avremo l'onorevole Maurizio Bianconi ospite, parleremo anche di droga, avremo Rita Bernardini. Sapete che la radicale Bernardini ogni anno coltiva marijuana in casa dicendo arrestatemi, venite ad arrestarmi, e nessuno va, cioè proprio dichiara un reato per la legge italiana, ma nessuno va. Sarà ai nostri microfoni dalle 8.15 e parleremo di tante cose. Dunque state con noi, intanto i giornali. È giovedì 24 settembre, non c'è un'unica apertura per i quotidiani, ma notizie diverse. Certo, il caso Volkswagen ancora in testa per il Sole 24 Ore. Volkswagen lascia Winterkorn, che è l'amministratore delegato. Repubblica, la truffa travolge l'amministratore delegato Volkswagen, allarme nell'Unione Europea. Per la stampa, Volkswagen, l'AD si dimette, inchieste in tutto il mondo. E il Fatto Quotidiano invece lancia questo allarme dalla Procura di Roma, l'Italia come Volkswagen, IPM, maxi imbroglio sui filtri diesel. Scossa elettrica è il titolo dell'Unità. Lo scandalo Volkswagen fa dimettere l'amministratore delegato, accelera la rivoluzione dell'auto ecologica. Per il Corriere della Sera invece la visita del Papa negli Stati Uniti, il Papa richiama i vescovi USA, i vescovi americani, Avvenire insieme per i deboli è il messaggio del Papa. E poi eccolo qua, infatti partiamo proprio dalla lettura di questa notizia. Il Messaggero taglia la sanità, svolta sui medici. Per Libero, tanti saluti alla salute. Mentre il Manifesto ha il titolo, come spesso accade, più geniale: si ammali chi può. Il Giornale invece, lo vedremo tra poco, ha una prima pagina sul padre di Renzi nei guai per un affare da 260.000 euro. Ma, come detto, il governo, il Ministero della Salute ha preannunciato questo decreto di contenente 208 prestazioni sanitarie a rischio di inappropriatezza, cioè esami o visite in eccesso, e per questo non più a carico dello Stato. Tutto ciò ha indispettito la categoria dei medici, che si ritiene ingiustamente colpevolizzata. Nonostante, scriva Margherita De Bac a pagina 20 del Corriere, il ministro Lorenzin non voglia dare la caccia ai medici, lo ha detto, non vi stiamo dando la caccia, scatterebbero dopo un contraddittorio. E non per un singolo episodio i controlli, così lavorerete meglio. Esistono protocolli di società scientifiche che stabiliscono cosa fare nelle varie situazioni, ci siamo basati su quelli. Ma i medici si ribellano. D'altronde la domanda la pone molto bene Gian Antonio Stella in prima pagina del Corriere della Sera. Ed è la domanda che si fanno molti medici quando fanno una prescrizione, nel senso quando prescrivono un esame. La domanda è brutale ed è questa. È meglio essere multati dal ministero per aver prescritto troppi esami o rischiare un processo dei parenti di un morto col pericolo di essere condannati a risarcimenti milionari per non aver accertato tutto il possibile? Perché fuori dai denti questa domanda si fa. Perché? Perché sono aumentate in modo esponenziale negli ultimi anni le cause per cosiddetta malpractice, cioè le accuse a medici di avere causato danni o di non avere curato bene una persona. Dati dell'Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici dal 94 al 2013, dunque in 20 anni, le denunce sono passate da 3.222 a 12.036, il quadruplo. Al punto, scrive Gian Antonio Stella, che un recente dossier della stessa associazione assicuratrici dice: gli assicuratori sono in ritirata per l'aumento del contenzioso, la difficoltà di censire i rischi. Ce l'hanno detto anche vari ascoltatori che lavorano nel campo della sanità, cioè le assicurazioni non assicurano più i medici per la paura delle cause, un disastro per i conti pubblici. Un'incognita per le assicurazioni, un incubo per i medici, un affarone per certi studi legali che in questi anni si sono spinti anche, scrive Stella, a pubblicità allucinanti come il manifesto di due poppe prosperose coi fili di un ordigno al tritolo che uscivano dal reggiseno, un orologio e una scritta «protesi cancerogene e difettose». Sia chiaro, scrive Stella, ci sono medici che commettono per sciatteria o incapacità sbagli imperdonabili da colpire duramente, ma che senso ha la home page di una rete di avvocati in franchising dominata da due figuri con cuffietta e mascherina sotto il titolo «Il killer silenzioso»? Ecco, che senso ha? Stella se la prende in questo articolo, soprattutto su con la proliferazione delle cause dovuta anche a me, ad avvocati evidentemente senza scrupoli. Per carità, adesso ci scriveranno gli avvocati, ognuno dal proprio punto di vista ha sempre ragione al 100% in Italia. Comunque, il business delle cause agli ospedali che spaventa anche le assicurazioni, l'articolo di Gian Antonio Stella in prima pagina del Corriere, continua poi a pagina 21, ma anche Repubblica con Michele Bocci dedica una pagina a questo e racconta quali sono le prescrizioni per le quali si abusa in Italia secondo dati numerici. Beh, la risonanza magnetica è al primo posto. In questo campo noi italiani siamo imbattibili, scrive Repubblica. Facciamo questo esame con più frequenza degli Stati Uniti o degli altri paesi europei, a un ritmo di circa 100 per ogni 1000 abitanti. Un'altra voce importante nella lista dei 208 prescrizioni è quella che riguarda le TAC, 3.800.000 ogni anno per 488 milioni di spesa. In gioco non entrano meno rispetto alle risonanze circa il 10%, cioè quelle alla schiena, agli arti non giustificate da problemi o sospetti oncologici oppure traumi. Insomma, c'è anche il libro nero degli abusi: troppe risonanze, ma per l'artrosi basta una lastra, per esempio, scrive Repubblica. Mentre Libero dice, Libero col direttore Belpietro, che ieri ha intervistato proprio il ministro Lorenzin, e dice: eccole qui le prescrizioni, le 208 che si vogliono tagliare. Anche per la stampa, la rivolta dei medici. Ne parleremo comunque dalle 9. Invece ci sono guai, scrive il giornale in prima pagina, per il papà di Renzi. La vicenda è un po' nota, ne hanno scritto vari giornali, riguarda una società di Tiziano Renzi. Il padre di Renzi in bolletta deve restituire 263.000 euro. È l'apertura del giornale, ne scrive anche il Fatto Quotidiano oggi. Il giornale con Gian Maria De Francesco riepiloga la vicenda. È il presidente della Regione Toscana Rossi che, rispondendo a una interrogazione del capogruppo di Fratelli d'Italia in Toscana, Giovanni Donzelli, ha annunciato che la finanziaria regionale ha chiesto la revoca della garanzia gratuita di 35.000 euro su un prestito concesso nel 2009 alla CIL. La CIL è la società di Tiziano Renzi, che poi però è stata ceduta, è tutto un complicato giro di cessioni. Nel 2009 la vicenda è questa: la CIL ottiene, grazie alla garanzia di Fidi Toscana, un finanziamento da 700.000 euro della banca di Pontassieve. Il dirigente incaricato dell'istruttoria è Marco Lotti, che peraltro è il padre di Luca Lotti, sottosegretario e braccio destro di Matteo Renzi. La garanzia di Fidi Toscana copre l'80% del prestito, perché a quella data l'intero capitale della società era intestato alla madre di Renzi, Laura Bovoli, e alle due sorelle, e dunque scattò l'agevolazione per l'imprenditoria femminile. Altrimenti la copertura si sarebbe fermata al 60%. Ma poco dopo l'arrivo del finanziamento, ecco che Tiziano Renzi torna azionista di maggioranza. C'è una cessione della società. Ecco qui l'inghippo secondo il quale, secondo la Regione Toscana, vanno restituiti i soldi, 263.000 euro, presi indebitamente con questo gioco di scambi di società. Vabbè, una vicenda che ovviamente è anche politica. Oh, a proposito di dottori, questa non l'ho detta. Sapete cosa è successo sul volo? Sul volo Roma-New York? Succede questo. C'è un passeggero che si sente male, ha una crisi di respirazione, questa è una cosa seria. Allora scatta sul volo all'Italia il solito annuncio: c'è un dottore a bordo? si alza Ignazio Marino, ve lo giuro, non è uno scherzo, Ignazio Marino si alza, racconta tutto la stampa, Marino fa il medico su Roma New York, si alza Ignazio Marino che dice le abbiamo somministrato un po' di Bentelan e ossigeno, ora sta bene, lo steward di Alitalia conferma è stato gentilissimo e poi dicono che il viaggio di Ignazio Marino negli Stati Uniti non serviva a un cazzo, invece scusate, mi è venuta così, non serviva a niente, non serviva a niente. E invece eccolo qua, Ignazio Marino ha soccorso, c'è un dottore a bordo, c'è un medico a bordo, ha soccorso sul volo Roma-New York un paziente che aveva bisogno. Vedete? Vedete? Vedete voi a diffidare sempre? Eccoci qui. Oh, invece questo mi ha molto colpito. Ed è una notizia che riguarda un personaggio che è diventato, suo malgrado, celebre. È il personaggio, è quel profugo fuggito dalla Siria col bambino in braccio in Ungheria, sgambettato dalla celebre, anche lei, reporter, poi licenziata. La sapete, no? Ve la ricordate l'immagine di quella giornalista ungherese che, presa da un momento di pazzia, sgambetta un profugo, inseguito dalla polizia, questo profugo scappa, inciampa, cade, travolge lui stesso il suo proprio bambino che portava in braccio, insomma, pianti, disperazioni, poi è diventato una star, si è scoperto che era un allenatore di calcio in Siria, l'han portato in Spagna, gli hanno dato una squadra da allenare, credo al Getafe, che è una squadra di calcio, il figlio invece è entrato in campo con Cristiano Ronaldo nel Real Madrid, insomma sono diventate delle star, ma attenzione perché Luigi Guelpa oggi racconta sul giornale forse un'altra verità, il siriano sgambettato ha fatto uccidere 50 curdi. Questa è l'accusa terribile nei confronti del profugo diventato martire dopo la caduta provocata dalla giornalista, ma secondo testimonianze di curdi che lo hanno visto nei filmati, giurano era un militante di Al-Nusra, organizzazione jihadista estremista, e ha fatto uccidere in un villaggio 50 curdi. Dov'è la verità? Io non lo so ovviamente, ma vi segnalo questo articolo di Luigi Guelpa perché racconterebbe una verità ben diversa sulla storia di questa persona che ora è in Spagna. Comunque è questo l'articolo che mi ha fatto più sonare della giornata. L'articolo che mi fa tenere le mani strette sul volante, o meglio le fa tenere a voi che siete alla guida, mani strette sul volante e caffè bollenti da appoggiare subito, anche il tè camomille, tutto. Per carità, io lo so che anche in carcere, soprattutto in carcere, se una, soprattutto tutte le persone, ma soprattutto le donne incinte, debbano essere trattate bene, con, nel senso, devono avere i loro spazi, devono, anche perché portano in grembo una persona che non c'entra nulla per rispetto al reato per il quale è stata condannata la madre, ma era incinta ed è stata trattata con crudeltà in carcere, è stata trattata con un mostro. È la difesa che la deputata del PD Eleonora Cimbro fa nei confronti di Martina Levato, la studentessa universitaria condannata in primo grado per l'aggressione con l'acido. È la vicenda a Milano. Questa onorevole Cimbro dice: sono stati violati i diritti di una donna incinta in carcere, con servizi igienici con la turca, temperature sui 40 gradi, non le è stato concesso di trascorrere quest'ultima fase della maternità in una struttura adeguata. Insomma, sono stati violati i diritti di Martina Levato. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, a pratica della grammatica. Va bene, va bene, va bene. Caro ascoltatore, ti vogliamo bene comunque. Allora, state andando al lavoro, state portando i figli a scuola, state facendo le vostre cose, magari siete a bordo di una Volkswagen E sappiate che il caso ovviamente è tutt'altro che chiuso, eh? A parte il fatto che l'amministratore delegato Winterkorn, che ci raccontavano l'altro giorno, guadagnava a questo punto, si è dimesso, 16 milioni di euro l'anno, 16 milioni di euro. Comunque lascia Winterkorn il titolo, come racconta il Sole 24 Ore, ha recuperato e ha chiuso ieri con un più 5,2%, dunque forse le perdite almeno in borsa per Volkswagen si sono fermate, forse sì, forse il peso è passato dal punto di vista finanziario, non certo dal punto di vista delle ricadute. Allora, il governo di Berlino dice: noi non sapevamo, e si difendono così. Ma ci sono tantissimi articoli che riguardano questa vicenda ancora sui giornali, ve ne segnalo alcuni. Paolo Griseri su Repubblica: c'è un'ipotesi class action mondiale, cioè un'azione legale collettiva da 50 miliardi di dollari. E tra l'altro Repubblica va a sentire Emily Maxwell, avvocato californiano con un'esperienza ventennale nelle iniziative a tutela dei consumatori che negli Stati Uniti vanno moltissimo. E dice questo avvocato: per prevedere le conseguenze è decisivo capire se Volkswagen è in grado di modificare il motore delle auto incriminate in modo da farlo tornare al di sotto delle soglie di emissione previste dalla legge americana. In caso contrario, cioè se non modificano tutti i motori, quelle automobili sarebbero illegali e dunque inutilizzabili secondo la legge federale. Così, oltre a 18 miliardi di multa massima ipotizzata, l'ente di controllo sulle emissioni dovrebbe aggiungere altri 12 miliardi da risarcire ai consumatori, calcolando un valore medio delle vetture da 25 mila dollari. Se anche non si arriverà a comminare la massima multa da 18 miliardi, è prevedibile che la somma di multa più risarcimenti arrivi a 25 miliardi di dollari. Questa è una stima ovviamente fatta molto velocemente da questo avvocato, ma ciò che forse dovrà pagare Volkswagen. L'altro articolo riguarda l'Italia, perché il Fatto Quotidiano scrive a pagina 2, è un'anticipazione che c'è solo sul Fatto, Marco Palombi e Carlo Tecce, che la Procura di Roma col procuratore Pignatone ha scritto una lettera al governo dicendo: è una beffa gigantesca anche sui diesel italiani. Sostiene il ministro all'ambiente Galletti: se scopriremo che anche in Italia sono state vendute auto con software per ingannare, bloccheremo le vendite. Ma, scrive il Fatto, il ministro deve essere un uomo distratto. In Italia la situazione è la stessa denunciata negli Stati Uniti. Aperte virgolette, una gigantesca beffa ai danni dei cittadini e dell'ambiente, così si legge nella chiusura di un dispositivo datato 30 giugno e inviato al ministro Galletti 10 giorni dopo dalla Procura di Roma. In sostanza, auto diesel vendute come ecologiche inquinano in realtà più delle altre grazie a decreti legislativi scritti apposta per favorire i costruttori. Questa almeno è la denuncia, scrive il Fatto Quotidiano, contenuta in una lettera della Procura di Roma. Ma anche il Giornale, con Giuseppe Marino, scrive che in una ricerca dell'Università di Urbino fatta da Michela Maione, docente di chimica ambientale e che coordina un progetto tra l'altro finanziato dall'Unione Europea, nel dicembre del 2014 questo gruppo di ricerca aveva prodotto una nota in cui si rilevava la relazione controversa tra le emissioni dichiarate, testate e rilevate nei cicli di guida reale. Insomma, pare che spuntino adesso anche come funghi allarmi già lanciati anche in Italia. Il caso comunque è molto molto delicato e molto aperto, tanto che Libero, con Maurizio Belpietro, il suo direttore, scrive: i tedeschi ora restituiscano i soldi incassati con le rottamazioni. Questa è la proposta fatta da Belpietro. Ovviamente c'è anche un molto di sentimento antitedesco nello scatenarsi in queste proposte. Comunque lasciamo la Volkswagen ai suoi guai, che chissà se sono solo suoi o anche di altre case automobilistiche, questo poi lo si vedrà. E veniamo invece alla politica italiana. Ah, la riforma del Senato. Oh, una boccata d'aria fresca. La riforma del Senato ormai è cosa fatta, pare, nel senso che nel PD c'è un accordo, c'è un'intervista a pagina 3 del Corriere della Sera ad Anna Finocchiaro, preposta come la grande stratega di questo accordo. Vabbè, insomma, c'è un inghippo. gli 85 milioni di emendamenti proposti da Calderoli. Lo aveva detto, è in arrivo una sorpresina. Avevamo detto che aveva preparato tutto secondo un algoritmo. Eccolo qui, Tommaso Ciriaco su Repubblica racconta come nascono questi 85 milioni di emendamenti. A un certo punto addirittura si bloccano i computer di Calderoli. Boom. E lui che dice: avete salvato tutto? Ovviamente sì, abbiamo salvato tutto, abbiamo fatto il backup. Perché grazie a un ingegnere che ho conosciuto qui al Senato, dice Calderoli, mi ha spiegato come fare un algoritmo che interpreti il mio pensiero, e qui è stata secondo me la parte più complicata, per tradurre il mio pensiero politico in emendamenti. Emendamenti ai quali poi l'algoritmo cambia spostando una virgola, mettendo un sinonimo a una parola, mettendo il contrario, mettendo una negazione, una doppia negazione che comunque afferma come nell'emendamento originale. Insomma, piccole variazioni che producono, grazie all'algoritmo, 85 milioni di variabili, tutte presentate. Grasso dice: è un insulto alle istituzioni. Calderoli risponde: è goliardia, sono sciocchi, questa è una partita a scacchi pesantissima. E poi trionfale dice: ma vi rendete conto, tutto con il computer abbiamo fatto, possiamo produrre centinaia di milioni di emendamenti, abbiamo trovato la quarta dimensione, siamo entrati nell'iperspazio della politica. Questo è Roberto Calderoli, che è il vicepresidente del Senato. Maria Elena Boschi, il ministro, intervistata da Repubblica, pagina 15, risponde per le rime, dice: pensate che Calderoli ad agosto voleva ritirare gli emendamenti se davamo la grazia al bergamasco Monella. Ecco, questo è il livello. Comunque ce la faremo con i tempi. Certo, c'è il rischio, per colpa anche di migliaia di emendamenti di SEL che slittino le unioni civili che volevamo approvare prima del 15 ottobre. E poi Maria Elena Boschi dice: ora il pallino è in mano al presidente Grasso. Ha detto che si sarebbe pronunciato sull'apertura o meno dell'articolo 2 solo una volta visti gli emendamenti. Ora gli emendamenti ci sono, aspettiamo che ci dica nella sua autonomia ciò che ritiene più corretto. Immagino che non si tratti di aspettare molto, aggiunge sottolineando Maria Elena Boschi, come dire, in fretta. Eccolo qui comunque, un algoritmo in aula, l'ostruzionismo 2.0 di Calderoli, pagina 5 anche del Corriere. Beh, Sergio Rizzo fa anche un commento dicendo: ma come, era il semplificatore, colui che da ministro si vantava di avere bruciato le leggi e aver tagliato le norme, ora cosa fa? Produce 85 milioni di emendamenti. Ma tutte quisquiglie di fronte alla capolista, sono tutte quisquiglie. La capolista è la Prosesto, che è prima del campionato di Serie D, girone B, stiamo trionfando e verremo in C2, nel C2 non c'è più, in Serie C, vero Mauro Meazza? Ma guarda, buongiorno Alessandro, verissimo, anche la Prosesto è capolista. Come? Peraltro, anche il Piacenza, peraltro, perché la Prosesto è in concomitanza col Piacenza, siamo primi insieme. Mi risulta che sia capolista anche l'Inter, così vedo dai giornali perlomeno, non so. Che giornali hai tu lì, o se hai un algoritmo che ti seleziona le notizie, 85 milioni di notizie pure a te, non ho idea. Adesso non mi è arrivata la Gazzetta, ma verificherò. Come mai? Proprio oggi non ti è arrivata la Gazzetta? Sono sfortunato. Allora guarda, puoi leggere però il Sole 24 Ore nell'attesa che ti venga consegnata la Gazzetta, se no te la porto io tra poco. Sì, sai che fine fa poi. Tra le altre cose potrai apprendere in questo modo che Draghi, il governatore della Banca Centrale Europea, ha detto ieri al Parlamento: siamo anche pronti ad ampliare il quantitative easing. È una buona notizia. Pensavo avesse detto sì al governo Berlusconi. Non mi risulta, era del governo Berlusconi. Così futuro. Non riferisce Alessandro Merli. No. Tutto può aver detto magari in altra sede, però non in quella di cui riferiamo. No. Poi ti volevo dire che ho appreso che ci sarebbero circa 9 miliardi di rate non pagate per debiti fiscali. Ah. E sai che il governo ha appena varato, ti ho chiesto anche di mettersi un pochino in ordine per l'occasione, giusto, il completamento della riforma fiscale. Mm. Allora, due questioni. Da una parte la notizia di cui riportiamo oggi, 9 miliardi di rate non pagate, potrebbe aprirsi uno spiraglio per tornare nei tempi, appunto, in forza della riforma. E da domani comunque ci saranno delle pagine di guida alla riforma fiscale sul Sole 24 Ore tutti i giorni per spiegare tutto quanto. Quindi sei pregato di metterti in ordine da domani, e ancora venerdì, ma anche sabato e domenica, non presentarti in qualche modo di fronte agli ascoltatori. Mettiti un pochino in ordine, mi raccomando. È una preghiera che ti rivolgo in per celebrare l'occasione. Sai che Ferrero aprirà una fabbrica in Cina? Non lo sai perché non hai ancora letto Impresa e Territori su Sole 24 Ore, altrimenti lo sapresti. E anche Italy aprirà a Parigi. Sempre ho letto su Impresa e Territori. Vedi quante cose ti imparo, caro Milan. Imparami. Oggi c'è anche naturalmente Casa 24. Mm-hmm. Casa 24 che ci parla, tra le altre cose, di sfratti, perché sono in aumento, ahimè, gli sfratti per morosità, e sono molto poco utilizzati i fondi per sostenere chi ha dei problemi e non riesce più a pagare l'affitto perché ad esempio ha perso il lavoro, si è ridotto sensibilmente il suo reddito. Sono fondi molto poco utilizzati. Ti spieghiamo tutto su Casa 24 di oggi. E poi concluderei ricordandoti che puoi trovare online la guida ai nuovi bilanci. Ieri non mi sembravi preparatissimo sul punto. Beh, però l'ho studiata tutta adesso. L'hai letta tutta? Sì. Vabbè, se ti fossi perso qualcosa, sappi che l'allegato che abbiamo dato ieri è disponibile anche sul nostro sito, è acquistabile anche online. E poi ci sono delle perplessità, per dir così, dell'Europa sui meccanismi della privacy su Facebook. E te lo spiega bene Beda Romano nelle pagine di Norme e Tributi, che tu sempre devi leggere, dimmi bene come, serenamente ma anche religiosamente. Religiosamente, sempre. Okay. Allora, tutto ciò premesso, e devo dire anche con una certa contentezza per l'andamento del campionato fin qui, caro Alessandro, cari ascoltatori, vi giunga il mio augurio. Traffico! Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Alessandro Milan, il tripulato di informazione. Tutti i Roma da sì, da Cuni. No, evviva, cari ascoltatori, mandateci 0246524492 la vostra sigla in dialetto. Devo fare un annuncio. Questa sera, se non avete nulla da fare, siete nelle zone di Milano, stasera alle 21 sarò allo Zelig di Milano con Leonardo Manera, torna Platone. Siamo in scena, allo Zelig di Milano questa sera alle 21. Dai, venite che costa poco e vi divertete un paio di ore. Allora, per quel che riguarda la politica, ci sono sempre più di Forza Italia che abbandonano. Esodo Forza Italia, in 8 vanno da Verdini. Carmelo Lo Papa racconta su Repubblica, sono Ignazio Abrignani, Giuseppe Galati, Giuseppe Ruvolo, l'ex ministro Saverio Romano e poi altri. Saverio Romano viene anche intervistato dicendo: con Denis Verdini avremo un futuro, con Silvio no. Insomma, sono tanti che abbandonano Berlusconi che, racconta Il Messaggero, reagisce così. Mario Aiello lo scrive a pagina 9: fuggono, ma dove vanno? Verso il nulla. Parole piene di ira di Berlusconi affidate ai suoi collaboratori. Ho visto andar via amici che hanno fondato Forza Italia insieme a me, ci ho sofferto, ma questi vadano pure, gli spalanco l'uscio. È gente che agisce solo per interessi personali. In realtà questa vicenda di passaggi parlamentari, che è una cosa che si è sempre vista nella storia del Parlamento, porta anche il Movimento 5 Stelle in procura a denunciare c'è il rischio di compravendita di parlamentari. Che cosa gli hanno promesso in cambio? Tutte le volte che succede che alcuni parlamentari cambiano casacca, ecco che partono queste accuse. Vi segnalo anche tanti articoli sul Papa, alcuni aprono su un viaggio del Papa che continua dopo Cuba, gli Stati Uniti, il Papa, ovazione per il Papa alla Casa Bianca, lui si è presentato così a Obama, anche io sono figlio di migranti come l'America. Ci sono tante analisi su il significato, anche l'appello del Papa, i tanti appelli, il monito ai vescovi, racconta Gian Guido Vecchia, pagina 9 del Corriere della Sera. Non siate divisivi, spero che non abbia usato proprio questa parola, divisivi, una di quelle che odio di più, cita comunque anche i momenti oscuri della pedofilia che soprattutto ha colpito il clero. Il clero americano, non è lecito lasciarci paralizzare dalla paura, siamo fautori della cultura dell'incontro, no alle divisioni, questo ha detto il Papa. Comunque ci sono tanti articoli, anche analisi su quella che è l'importanza di questo viaggio. Per quel che riguarda invece l'immigrazione, vi segnalo l'intervento del ministro dell'interno Angelino Alfano, che prende carta e penna, scrive a pagina 13 del Corriere della Sera, o meglio viene messo a pagina 13 del Corriere della Sera, dicendo che l'Europa finalmente ha dato il sì alla ripartizione in quote di migranti. Insomma, scrive Alfano, o tutto orgoglioso, avevamo visto giusto, avevamo visto lungo, avevamo visto prima, sia dei singoli partner continentali che della stessa Unione Europea. Tra l'altro sul Corriere della Sera, lo faccio vedere anche in diretta su Periscope, dove ci potete seguire da questo momento, c'è un'intervista al magnate egiziano Sawiris, che è già stato intervistato dal Foglio, ma ora intervistato dal Corriere da Viviana Mazza, dice che il suo sogno, che è quello di comprare un'isola per metterci 100.000 profughi, si sta concretizzando. Eccolo qui Sawiris: l'isola, che ha il vantaggio di evitare che i rifugiati tolgano lavoro agli italiani, l'avrei individuata in Grecia. La chiameremo Isola di Aylan, cioè il nome di quel bambino morto sulle spiagge della Turchia. Sono disposto a spendere 200 milioni di dollari. Ho individuato due isole in Grecia, ma non dico quali. Abbiamo posto una precondizione, che il governo greco ci dia il permesso di ospitarvi i rifugiati. Per la verità ho scritto anche a Renzi, ma non penso che l'Italia voglia rifugiati. Sawiris dice: lì nascerà un nuovo paese, un'isola dove mettere 100.000 profughi da tutto il mondo. Chissà se ci riuscirà oppure no. Ma eccola qui, l'articolo più inutile scovato sui giornali, ma che in realtà descrive una vera verità. L'IKEA è il cimitero delle coppie felici. Scrive Libero uno studio psicologico. Dice che le coppie all'IKEA litigano. Litigano all'IKEA. Litigano lì e litigano dopo, in fase di montaggio, dove si deve montare un cassetto e non si riesce a capire come diavile si fa all'IKEA. Ma chi se ne frega? Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Ciao Milan, che te portino via fuoco. Tu sei un mascalzone. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Siamo qui alle 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan anche oggi, penultimo giorno, finalmente andremo in onda fino alle 9:30. Allora, abbiamo parlato della legalizzazione della cannabis, vi ricordate un po' di tempo fa, abbiamo anche invitato il primo firmatario del disegno di legge bipartisan che ha raccolto oltre 200 firme, si tratta del sottosegretario Benedetto Della Vedova. Poi che fine ha fatto questa vicenda? Beh, si staranno raccogliendo le firme, sapete che poi queste cose rischiano anche di perdersi nei meandri parlamentari, dove c'è sempre una priorità rispetto a un'altra. Una cosa so per certo è che c'è una persona che la sua legalizzazione se l'è fatta in casa, in pratica, se la fa ogni anno. Certo, è un reato, o forse si potrebbe chiamare disobbedienza civile. Sono sicuro che lei preferirà questa formula, disobbedienza civile, da radicale qual è, segretaria nazionale dei radicali Rita Bernardini. Buongiorno Bernardini, benvenuta. Buongiorno a lei. Allora, che fa? È vero che ogni anno lei coltiva a casa sua con passione, dedizione e cura che cosa? La marijuana. La marijuana ad uso terapeutico negli ultimi anni, perché poi la consegno ai malati che non riescono ad avere accesso ai farmaci cannabinoidi, perché è un farmaco anche. Sì, è un farmaco. C'è il cellulare che va e viene un po', la sua comunicazione. Vediamo se la sente. No, non è colpa sua, ma come sa, intervenendo spesso anche in radio, anche lei è un po' un problema se in radio non si sente. È un reato, lo sa? C'è la linea del cellulare che prende male. Dai, la richiamiamo e vediamo di ripristinare la conversazione. Intanto voglio salutare un altro deputato, il deputato per l'Italia. Questo è il gruppo Gianluigi Gigli, che è anche uno psichiatra, se non sbaglio. Professor Gigli, buongiorno. Buongiorno, sono neurologo prima che psichiatra, ma anche psichiatra. Anche sì, tra i casi di gioventù ho fatto anche lo psichiatra. Vabbè, non era degradante darle lo psichiatra. Si fa il giardinaggio come la Bernardini e ha questi altri peccati di gioventù. Giardinaggio, lei non ha firmato. Le è arrivato Benedetto della Vedova con la proposta per firmare? No, Benedetto non si è nemmeno fatto avanti con me, perché sa come la penso in materia, certo. Da medico prima che da deputato. Non ha provato neanche a convincerla, quindi. No, avevo buoni argomenti per convincerlo io del contrario. Ah, dice che l'avrebbe fatto ritirare, non credo questo. Però insomma, a che punto è? Lei lo sa questa raccolta di firme? Beh, è stato presentato un disegno di legge, è stato depositato al Senato e adesso ovviamente, come tutti i disegni di legge, perché lei sa che ogni deputato e ogni gruppo di deputati può sfornarne teoricamente quanti vuole, è chiaro che poi dopo è l'accordo tra i gruppi parlamentari a stabilire qual è la calendarizzazione di questi progetti sulla base di criteri di priorità, e in questo senso io credo che la priorità del nostro paese in questo momento non le è priorità del nostro paese siano ben altre, come dice quello, non voglio fare il benaltrista, però già dicendo ben altre. Comunque abbiamo recuperato Rita Bernardini. Rita Bernardini ci dice l'onorevole Gigli che lei fa giardinaggio, questo si dedica al giardinaggio. È un reato, ma però fare quello. Sì, ma io ne sono consapevole, tant'è vero che mi sono meravigliata quando la Procura della Repubblica di Roma ha archiviato, dopo avermele sequestrate, le mie 56 piante che avevo coltivato sul mio terrazzo e che erano destinate, con amore, certo, con amore, perché erano destinate a quei malati che non riescono ad avere accesso a questo farmaco, perché diciamo anche che da diversi anni teoricamente è legalizzato infatti, per i malati. L'uso della cannabis a scopo terapeutico c'è, ci sono regioni che la danno. La danno, in realtà l'accesso è molto molto limitato. Io cito sempre il caso di un ragazzo che è resistente, ha dei dolori veramente cronici ed è resistente ai farmaci normali che sono a base di morfina. E ha molti effetti collaterali, ma non riuscendo ad avere, anzi lui ha accesso ai farmaci, solo che la ASL glieli fa pagare migliaia e migliaia di euro e lui non ha i soldi. Non ha i soldi, e quindi lei lo fa per questo. Però Bernardini, ma lei lo fa anche come atto di disobbedienza civile, certo. perché mette su Facebook le foto, guardate, la semina, qual è la parte più difficile della coltivazione di una pianta di marijuana? Io non ho trovato difficoltà, anche è perché semplice. Poi su Facebook ci sono mille consulenti, perché il fenomeno del consumo di marijuana e di hashish, come ha detto la Direzione Nazionale Antimafia, è diffusissimo nel nostro paese. Si calcola che almeno 5 milioni di persone ne facciano uso. Per lei è una buona cosa? No, non la giudica. La legalizzazione? Fatto che ne facciano uso 5 milioni. È una cattiva cosa il fatto che siano costretti a fornirsi di questa sostanza dalla criminalità organizzata, oppure a rischiare la prigione, come è successo a un paraplegico tre giorni fa che coltivava tre piante sul suo terreno. Questo sull'uso terapeutico, però abbiamo appunto l'onorevole Gigli che è psichiatra e neurologo. Dottor Gigli, allora gliela metto così, o professor Gigli? Professor Gigli, di una clinica universitaria. Professore, scusi, questa era un po', ho fatto una diminuzio. Professore, effettivamente l'uso, cioè Rita Bernardini dice lo faccio per aiutare quei malati che non sopportano il dolore e non hanno accesso perché costano magari alle cure di farmaci a base di cannabis, di marijuana. Guardi, questo atteggiamento di partire sempre un po' dai casi pietosi per poi stabilire dei diritti generalizzati è un pochino tipico della storia del movimento radicale in Italia. Ora, nessuno di noi nega, nessuno di noi nega le proprietà terapeutiche della cannabis in alcuni ambiti, peraltro anche proprio nel mio settore, che ne so, faccio riferimento alla sclerosi multipla per dirne uno, no? Ecco, ma da qui al discorso dell'uso ricreativo, che questo è il vero obiettivo, c'è un salto enorme, un salto culturale innanzitutto. Cosa voglio dire? Se ogni farmaco viene dato sempre dal medico, tenendo conto che può essere anche dannoso quanto ad effetti collaterali, ma mettendo sul piatto della bilancia il danno ed il beneficio di ciascun farmaco, questo per qualunque farmaco viene fatto, nel caso dell'uso di ricreativo, noi quello che possiamo dire è semplicemente, da un punto di vista clinico, che abbiamo a che fare con una sostanza che fa sempre male. Rita Bernardini non nasconde che anche l'uso ricreativo sia un punto al quale vuole arrivare. Appunto. Allora, se una sostanza fa sempre male, così come facciamo degli sforzi nella nostra società, li stiamo ancora facendo, per contrastare fenomeni culturalmente molto più datati come il tabacco o l'alcol, e ogni anno diciamo cerchiamo di dare una piccola avvitata, se possibile, a fenomeni di questo genere, che sono oggettivamente dannosi per la salute pubblica, io credo che noi altrettanto dovremmo tenere elevata la guardia e non allargare invece la possibilità di apertura per un fenomeno che, ripeto, nell'immaginario comune è così sognato come una sorta di Bengodi, ma in realtà dal punto di vista del danno d'organo, che è il cervello, l'organo più nobile che abbiamo, poi anche su altri organi fa male, come i polmoni o il sistema immunitario, ma a livello cerebrale produce dei danni importanti. Insomma, l'accusa poi è di volere, Bernardini, ha capito, usare quella la vicenda dei malati, la vicenda grande, diciamo, anche come cavallo di Troia per poi far inserire la questione dell'uso ricreativo, che è una cosa alla quale lei mira, cioè lo dice apertamente. Ecco, ma pure. Io le mie disobbedienze civili, anzi le disobbedienze civili radicali per la legalizzazione, sono iniziate nel 1975. È stata arrestata, se non sbaglio, 20 anni fa, no? Nella famosa. Sì, ho fatto 2 giorni di detenzione domiciliare per la felicità di mia madre che finalmente mi vedeva. Ma comunque, quello che voglio dire, Marco Pannella fu arrestato da Ennio Di Francesco, che poi espresse la sua solidarietà con un telegramma. Nel 1975. Ma è vero che lei per questi precedenti penali, risulta che lei abbia precedenti penali per questa vicenda, ne ho fatte 40 di disobbedienza. No, ma è chiaro, le hanno negato. Non riesco a farmi arrestare. Non riesce a farsi arrestare. Vabbè, le hanno, anche se vengono a sequestrarle le piantine, non la arrestano. Le hanno però negato la possibilità, credo, di avere un ruolo in Abruzzo come garante dei detenuti o un qualcosa del genere. Sì, per indegnità, per una legge che consente per altri tipi di reati, evidentemente l'importante è che la condanna sia sotto i 2 anni, consente la candidatura a questa carica. Ma perché si vuole far arrestare? Lei dice non riesco a farmi arrestare. Cioè, cosa fa? Una provocazione un po'? No, perché io vorrei che su questo tema finalmente si dibattesse. In fondo, quella che ho citato, la relazione annuale della Direzione Nazionale Antimafia, che ha chiesto al legislatore di legiferare nella direzione della legalizzazione, non è stata dibattuta da nessuna parte. Però se ne dibatte da anni di legalizzazione o no. Sì, ma un conto è che venga anche dibattuta, insomma, non mi pare che ci sia stato un grande approfondimento sul tema. Io sono felice, per esempio, che al prossimo mio processo, che si terrà il 2 ottobre a Siena, verrà a testimoniare in mio favore il professor Diego Centonze. Processo perché? Sempre per detenzione? Sì, per la cessione che ho fatto chiamando la polizia insieme a Marco Pannella, a Laura Arconti, al congresso dello scorso anno di radicali italiani. Ora, ma si vuole tenere conto di una istituzione che viene tenuta in un palmo di mano? La Direzione Nazionale Antimafia dice che non riesce a reprimere il consumo, tanto è diffuso, solo che è gestito dalla criminalità, dalla criminalità organizzata. Allora, un fenomeno che può essere anche contenuto con politiche di informazione viene lasciato in mano ai criminali. Quindi invece andrebbe regolato, insomma, Gigli, questo è il punto su cui insistono quelli che sono, a favore della legalizzazione. Ho ben presente questo punto. Togliere alla criminalità del succo vitale, sì. Ecco. Mi consenta però di dirle due cose a questo riguardo. Allora, la prima è che se noi siamo convinti, e io ne resto convinto, ripeto da medico, che al di là dei casi terapeutici queste sostanze contenute nella marijuana e nell'hashish sono pericolose per la salute, ma come tante altre sostanze, non estirpiamo le vigne come qualcuno mi suggerisce, perché c'è il vino, di dirle solo, a allargare la platea, facilitare il consumo è assolutamente controproducente per quanto riguarda appunto la gestione del fenomeno salute e i costi anche della salute dal punto di vista della collettività. Ma arriva alla criminalità. In tutti i paesi decido un dato fresco di due settimane fa, se vuole. Negli Stati Uniti, come lei sa, è stata in alcuni stati degli Stati Uniti completamente depenalizzata, si vendono pure le cioccolate con la marijuana. Ebbene, negli Stati Uniti che cosa è successo? È successo che la criminalità organizzata da un lato ha preferito, come dire, andare a lucrare forse anche di più sulle fasce che sono escluse dal consumo, tipo i minorenni per esempio, e tipo oppure offrendo sostanze a più alto contenuto di tetraidrocannabinolo, il principio attivo, cioè si selezionano geneticamente le piante a maggior contenuto e viene offerto questo. La criminalità organizzata troverà sempre un modo per lucrare su qualcosa. Il dato più allarmante è che c'è stata una ripresa attraverso un'offerta a basso costo di eroina che ha moltiplicato nel giro di 10 anni, sono dati ufficiali, ha moltiplicato per 4 in 10 anni la mortalità da eroina. Però Gigli, per coerenza, Gigli, lei non dovrebbe vietare il fumo, vietare i superalcolici? Cercando, come le dicevo prima, di fare, restringendo sempre di più, lei sa che contro i fumatori si stanno addirittura organizzando adesso campagne in giro per il mondo, lei da neurologo mi occupo anche ovviamente di ictus cerebrale, semplicemente per magari aumentare il prezzo e ridurre il consumo per prevenire il danno a livello cardiaco cerebrale del fumo. Sì. Questo lo si ma fa. Le potete fare queste campagne, le si possono fare proprio perché è legalizzato il tabacco. Così come no, le possiamo fare le campagne, non vengono fatte innanzitutto per dire ai giovani che la marijuana fa male, ma questo lo si faccia anche perché il principio che passa è quello di dire tutto sommato è una cosa innocua che non fa male se non ammazza nessuno, questa è la frase ricorrente. Aspetti Gigli, che dici? Qualcuno che è morto per marijuana me lo presenta, qualcuno che è morto per uso eccessivo di marijuana? Vabbè, però questa frase effettivamente Bernardini rischia poi di far passare il messaggio che farsi una bella canna è un qualcosa di benefico. No, e ma questo, quello che voglio dire... È... No, ho detto, siccome ha parlato di mortalità, la mortalità c'è per altre sostanze, tipo l'eroina, tipo la cocaina. E allora, se noi le mettiamo tutte nello stesso calderone, anche non facciamo distinguere ai giovani la pericolosità di altre sostanze. Cui dice, se mi fumo una canna è la stessa cosa che se mi faccio una pera di eroina, non è la stessa cosa. Vogliamo anche svelare questa cosa, ma è vero che lei c'ha uno spaventapasseri per le piante, perché sennò se arrivano questo spaventa... Vabbè, ho messo la foto di Giovanardi, una cosa scherzosa. una specie di spaventapasseri che ha allontanato gli uccellini. Con la foto di Giovanardi, cioè cosa ha fatto? Un cartonato? Sì. Ma ci sono le foto. E i passeri? Facebook. E i passeri che fanno i passeri? Scappano, volano via. Cioè, quindi è efficace come spaventapasseri Giovanardi dice. Sì, effettivamente sì. Vabbè, questo in un modo scherzoso è l'aspetto ludico e scherzoso. L'aspetto ludico e scherzoso. Comunque, ditemi la previsione. Bernardini, questo disegno di legge di Benedetto della Vedova, ex radicale peraltro. No, attuale radicale perché è iscritto al Partito Radicale. Ah, è iscritto al Partito Radicale, sì. però fa parte. Le do questa notizia. Ah, vabbè, ma lo farà come sostenitore, rinnoverà la tessera, però fa parte di un altro partito. Sì, però fa parte di un altro ma partito. Noi siamo transpartiti, sì, ah, giusto. Non c'è problema. Ci sarà, cioè passerà, avrà un iter, avrà speranze di passare oppure no? È proprio il pronostico secco. Guardi, io sono convinta di una cosa, che prima o poi passerà. Il problema sono i tempi, perché ormai nel mondo si va in questa direzione. Di regolamentare finalmente un fenomeno che è un fenomeno sociale. Sì. E la regolamentazione può essere anche severa, ma così è liberalizzazione totale. Quella che c'è oggi è una liberalizzazione totale senza alcun tipo di controllo, sì, anche sul prodotto consumato. Quindi, meglio legalizzare. Anche a Gigli lo chiedo, al di là che lei è contrario, che umori e che sentori ha, al di là del fatto che non è la priorità secondo lei, ma è molto trasversale come firme, ci sono di tutti i partiti. Gigli avrà... Del mio no, non ce n'è, il gruppo per l'Italia non c'è nessuno. Chiaro. E siamo in maggioranza comunque di governo. Il problema è che in questo Parlamento certamente ha ragione la Bernardini, non comandano più come cultura né i socialisti né i cattolici né i liberali, comandano i radicali, che sono transpartito oltre che transnazionali. Detto questo, noi faremo di tutto per opporci a questo tipo di mentalità, convinti, ripeto, che non sia un bene per un paese che le psicosi aumentino, che i ragazzi rendano meno sullo studio, che la gente abbia problemi sul lavoro, che aumentino gli incidenti alla guida, non ci saranno le morti dirette, ma tutto questo è un danno oggettivo per la salute pubblica e come tale va scoraggiato, non certo incoraggiato e banalizzato. Va bene, ci fermiamo. Intanto vi ringrazio Rita Bernardini, segretario nazionale dei Radicali, e Gianluigi Gigli, deputato per l'Italia. Però se volete chiamarci 800 24 00 24, chiamateci su questo tema, diteci la vostra, che tra poco qualche un po' di spazio agli ascoltatori ci sarà. Poi avremo Maurizio Bianconi, deputato, perché da un po' che non lo sentiamo. Sapete che è uno che non ha mai peli sulla lingua, dice sempre giudizi urticanti, e allora voglio sentire un po' anche sul fatto, lui ex berlusconiano, ora fittiano, che ne pensa di tutti questi transfughi che passano e abbandonano Forza Italia. Poi dalle 9 alle 9.30 torneremo su un aspetto medico, quello che è l'apertura per molti giornali, allora le prescrizioni 208 che vengono tolte dal Ministero e che dovranno essere a carico dei pazienti perché si fanno troppi esami e i medici sono sul piede di guerra, ne parleremo. E allora eccoci, cari ascoltatori, le 8.41 minuti, 800 24 00 24, dai, chiamateci allora perché vorrei sentire che ne pensate. Giovanni da Bari ci chiama, sì. Buongiorno Giovanni, c'è il sole lì. Buongiorno. Un po' di calduccio, che qua al nord è venuto l'autunno totale. È caldo, però c'è pioggia oggi. Vabbè. Dica Giovanni. Niente, io volevo rispondere alla signora dei Radicali, sì, che diceva: ma lei quante persone conosce che sono morte per marijuana? In realtà questa mi sembra un'affermazione molto crudele per i genitori delle vittime della strada, di quei ragazzi magari di 15 anni, 16 anni, che sono stati travolti da delle macchine guidate da gente che aveva fumato marijuana, o magari da cocaina, o magari dall'alcol, non è morto. Però magari anche di alcol erano... Anche di alcol, certo, però anche di marijuana. Allora cosa vuol dire? Che siccome la gente muore per investita da gente che ha bevuto alcol, dobbiamo aggiungere a quelli anche quelli che della marijuana. Ma guarda, il discorso è un po' diverso, Giovanni. Il problema è che se uno si vuole procurare la marijuana, se la procura comunque, no? lo fa però in modi illegali, chiaramente andando allo spacciatore. Anche a Bari, se lei dovesse a Bari andare a recuperare un po' di marijuana, saprà dove andare, no? Basta che fa due o tre domande. Ma io, se posso dirle questa cosa, guardi, che può essere molto utile per tanti genitori. Io ho avuto la fortuna di avere un padre che non mi ha mai dato un euro in tasca, una lira in tasca, sì, all'epoca. E io, nonostante avessi 4-5 amici, di cui almeno 3 usavano marijuana, io non l'ho mai avuta. né nessun spacciatore si è mai avvicinato a me. Vabbè, è stato... perché sapevano che pur essendo ricco non avevo un euro in tasca, non potevo pagare niente. Vabbè, è stato, come dire, non so se ho fortunato, comunque ho avuto questa esperienza di vita. Ma la ringrazio per questa testimonianza. Vorrei andare a Padova? No, prima a Milano, da Enrico. Enrico c'era prima. Enrico, buongiorno. Buongiorno Milan. Ecco, era proprio sul come si può appunto recuperare queste sostanze. Io ho due figli adolescenti, per ora non fumo neanche le sigarette, però io se penso che i miei figli un domani, spero che no assolutamente, ma che magari vadano in certi condomini qui che ci sono a Milano, in certe zone dallo spacciatore. Cioè lei preferirebbe invece riprendessero in un posto tranquillo, in una tabaccheria, perché ci sono veramente persone che poi oltretutto si creano queste finte amicizie tra questi ragazzini e questi spacciatori, mm-hmm. che poi insomma propongono anche altre sostanze, non solo quella. Lei dà un po' per scontato che prima o poi accadrà e quindi tanto vale farlo in sicurezza? Sia io che mia moglie facciamo sempre di tutto, diciamo, per togliere l'attenzione, poi per il momento. Però se dovesse accadere, preferirei appunto che i miei figli evitassero assolutamente di ricorrere a queste amicizie, conoscenze. E lo facessero in sicurezza. Va bene, la ringrazio per questa sua posizione, Enrico. Da Milano. Allora, dopo il traffico, adesso do informazioni sul traffico, avremo l'onorevole Maurizio Bianconi, che forse è già con noi al microfono. Buongiorno onorevole. Buongiorno a voi. Perché da un po' che non la sento, volevo sapere come va. Se lei non mi invita, io non posso entrare di prepotenza nella sua strada. Non ho infatti manco adombrato il sospetto che fosse colpa sua. Comunque, il traffico e poi siamo da lei. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Siamo qui allora con l'onorevole Maurizio Bianconi, che oggi fa parte di Conservatori e Riformisti, del gruppo di Fitto, anche se lei è ancora iscritto al gruppo di Forza Italia formalmente. Siamo tutti ancora iscritti formalmente al gruppo di Forza Italia. Siete dei Quisling, insomma, dei... Siamo lì perché non sappiamo se facciamo componente di gruppo misto o gruppo vero e proprio, perché ancora non siamo 20. Non siete 20, ma chissà. Ma è un fatto tecnico, diciamo. È un fatto tecnico, no? Sì. Perché lei, ex berlusconiano, poi ha rischiato di tracciare una strada, perché ha visto che adesso l'abbandonano un po' tutti, forse no, ma l'abbandonano sempre un po' Berlusconi, altri per 8. Forza. Per forza. Però Berlusconi è diciamo così, politicamente un fenomeno esaurito, è stato un grande fenomeno, ma è che è finito a causa dei nostri e dei suoi errori, e quindi è sopravvive a se stesso, e non c'è niente di peggio che sopravvivere a se stesso. E cioè anche Verdini gli aveva dato una soluzione che io non approvo per nulla, però era una soluzione politica. È logico che alcuni la pensino come Verdini e vadano con lui. E infatti, perché poi anche lei, insomma, politicamente era con Verdini, adesso è molto, molto... Noi Verdini è sempre stato quello che si definisce, virgolette, un falco, e quindi e io sono un falco di natura, e perché non sono per le mezze misure. E però sta confitto, e perché non sta con Verdini? Mi è sempre piaciuto. Poi ho incominciato a fare l'opposizione interna perché hanno incominciato a appoggiare Monti, a appoggiare, ti ricordo, Letta, ti ricordo tutte quelle vicende lì, l'hanno votato la Severino, hanno fatto delle puttanate. E quindi sono sempre stato fuori. Ho incontrato nella mia strada Fitto, che per suo verso, da un certo punto in là, ha incominciato a lamentare una certa carenza di democrazia interna. E ci siamo un po' messi insieme. Quindi prima c'era Forza Italia, no, è chiaro, adesso è Fittiano che è bianconiano, questo è chiaro. Io sono bianconiano e sto confitto, bravo. Ecco, quindi prima c'era Forza Italia, adesso c'è Forza Italia, ci sono i verdiniani, ci sono i fittiani. I verdiniani, sì, ma Forza Italia è un fenomeno ormai, è un fenomeno di stessa. È un sottofenomeno, finisce. Beh, però quello è quello più numeroso ancora, Ma questo io non lo so. Non lo so se alla prova dei fatti, per esempio, la soluzione Verdino, la soluzione nostra, sono due soluzioni radicali, cioè, o coerenti o controversi, sì. E no, mezzo dentro e mezzo fuori, non raggiungerebbero numeri maggiori di una politica così incerta. Lei sa che Berlusconi non è andato alla riunione del gruppo dei senatori perché ha detto Canzamenti e a Romani non so cosa dire. Non sa cosa dire. Però allora a me Bianconi interessa anche un altro fatto. Lei ne ha combinata un'altra delle sue, visto che si sveglia e mena fendenti a destra. Sono a uno mattiniero. Sì, ce l'ha. Anche, vedo. Qualche volta la inviterò alle 6:30. Lei è delle 6:30, le sue alle 6. Infatti, no, io mi sveglio alle 5 per la verità, ma la inviterò qualche volta alle 6:30 anche. Il problema è questo, che lei non le è molto simpatica anche la Merkel, questo si è capito. No, non le, certo. Non le sono simpatici i tedeschi. La politica germanica in generale. Però ha utilizzato questa vicenda della Volkswagen per dire che cosa? Cose un po' dure, cioè, tipo... Ma ho fatto un po' di cabaret, ma è giusto farlo. Ma che cabaret? Ha fatto il cabaret? Ha fatto le battute sull'uso del gas da parte dei tedeschi? No, perché non l'hanno usato il gas? Ma ho capito, ma non sarà mica cabaret, Bianconi. Sono morte 6 milioni di persone. Il paragone è un po' cabaret. Però è vero, insomma, col gas hanno qualche difficoltà loro. Sì, ho capito. Però capisci l'hanno usato più di una volta. Per i loro interessi fanno qualsiasi cosa. È un popolo pericoloso, ma... come cultura interna. Ma dai, il popolo tedesco. Un popolo che ha un inno che dice... Deutschland, Deutschland, Uber Alles è di per sé pericoloso. Ma perché? La Germania soprattutto è pericoloso. Poi soprattutto quando lo diceva Hitler, perché anche aveva questo imbecille. 60 anni fa era pericoloso, adesso. E questa Germania ha lo stesso inno. Noi non abbiamo più giovinezza, capito? Loro sì invece. Cioè secondo lei i tedeschi non hanno mai superato la fase del nazismo? Che i tedeschi? No, non è così. I tedeschi, anche attraverso il nazismo, hanno sempre curato la fase loro, cioè l'egemonia sull'Europa e sul mondo. Però dai, questo paragone a dire la Volkswagen col gas come... Perché mi dica che non è vero. Ma non è vero, ma è... Una... No, ma lei mi dica... Lei dice che io ho esagerato, lei mi dica che non è vero. Mi dica che non è vero che la Volkswagen ha avvelenato... gli Stati Uniti d'America. Vabbè, ma questo è un caso. Un milione di macchine. Ma questo è un caso accertato. Ho capito, questo è un caso accertato. Ma è il paragone che è fastidioso. È bellissimo, è evocativo, è bellissimo. Indica quello al quale siamo sottoposti. Noi non stiamo facendo l'Europa, stiamo realizzando il sogno tedesco di egemonia sull'Europa. Quindi è evocativo e bellissimo questo paragone, cioè, ma è venuto proprio così, dice adesso faccio una battuta sul fatto che utilizzano il gas sempre. Certo, ma io il giorno prima avevo scritto i tedeschi affamano l'Europa, avvelenano gli Stati Uniti e stanno sui coglioni a tutti. Sì, pensi che io, caro Bianconi, ho fondato idealmente il partito Chiavi alla Merkel, lo dica bene, perché c'è il rischio di fare con una cosa così, se fosse nel sud dove l'accusativo diventa dativo, il caso sarebbe in difficoltà. No, infatti ho detto si scandisca bene il nome del partito, perché sennò ci sono dei qui pro quo chiavi alla Merkel, cioè consegnare le chiavi dell'Italia alla Merkel, se ci fossero delle chiavi. Ma è come quello che stando a Pavia, a Napoli, che non so dove esattamente, dice ma che fai? Baci alla Sofia Loren, capito? Anche baci a Sofia. Dice che devo cambiare nome perché molte volte l'accusativo viene usato come accusativo. E quindi sarebbe vagamente da doppio senso. Non ci avevo pensato a questo. Metta Catenacci, metta non lo so, Lucchetti, qualcosa. Lucchetti alla verità. Chiavi non mi sembra molto. No, molto. Vabbè, non le sembra me. No, al di là delle battute, però insomma. No, non è possibile. E le spiego perché. In 30 secondi, perché il concetto è complicato. Che devo chiudere. Sì, l'Italia vive di economia flessibile, l'Italia vive di microorganizzazione imprenditoriale, l'Italia vive di inventiva personale. La Germania vive di economia compatta, di stabilità, di ritmi preordinati. Noi non abbiamo la cultura per fare la Germania, la Germania non ha la cultura per capire. Ah, quindi anche se dessi le chiavi alla Merkel, ci rovinerebbe. Il problema del... Io quando facevo l'avvocato, cioè, lo faccio ancora, ma quando lo facevo proprio a tempo pieno, vendetti una ditta importantissima italiana agli giapponesi. Una family company molto e questo, allora se la tenga sono lì sono falliti in tre anni se la tenga lì, ce la racconterà la prossima giornale radio. State con noi. Buongiorno da Maurizio Melis. Se appartenete a quella categoria di persone che non può fare a meno di vedere e rivedere la moviola, impazzite per le statistiche calcistiche e volete sapere tutto di tattica e condizioni fisiche dei giocatori, insomma se siete dei malati di calcio, sappiate che stasera a Smart City parleremo di parastinchi dotati però di sensori che potrebbero cambiare il modo di vedere il calcio mandandovi in visibilio oppure insomma al manicomio a secondo dei casi. Li sta sviluppando una startup italiana, SpaceX, e contengono dei sensori che permettono di geolocalizzare con altissima precisione ogni singolo giocatore in campo in ogni istante. Di ognuno di loro si potranno quindi conoscere traiettorie, movimenti con e senza palla, calcolare la potenza di tiro, l'accelerazione e naturalmente anche sapere se hanno subito urti di qualche tipo. L'appuntamento con Smart City è qui su Radio 24 alle 20:50, ma ci trovate anche su Facebook e su Twitter come @smart_melis. Buona giornata a voi tutti. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Sebastiano Barisoni. La vicenda che sta contrapponendo l'ordine dei medici con il governo e la minaccia di sciopero a novembre è più complicata di quanto non possa apparire. Nello specifico, i medici protestano contro la pubblicazione della lista di 208 esami e interventi specialistici che andranno considerati a verifica di appropriatezza prescrittiva. Il documento varato dal governo precisa infatti, accanto ad ogni prestazione citata, le condizioni in cui può essere erogata, ossia i criteri in base ai quali il medico può prescrivere al paziente questa visita a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il governo vuole evitare i 13 miliardi stimati per difetto di euro che costa al Servizio Sanitario Nazionale l'eccesso di visite non necessarie. I medici rispondono che è un'intrusione di campo che va a violare il rapporto di fiducia tra medico e paziente. Il punto però è un altro e riguarda la cosiddetta medicina difensiva. In moltissimi casi, infatti, questi esami inutili vengono richiesti dal medico per cautelarsi contro possibili cause da parte dei pazienti. Ecco perché il governo nel frattempo sta lavorando a una norma da inserire nella legge di stabilità per aiutare i medici a difendersi da queste cause. Se veramente fosse così, saremmo alla quadratura del cerchio. Il Servizio Sanitario Nazionale risparmierebbe molti miliardi, e quindi noi cittadini, di diagnosi e visite inutili. I medici non avrebbero più bisogno di ricorrere alla pratica della medicina difensiva perché sarebbero maggiormente tutelati di fronte al paziente. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Mattino. Eccoci qui allora, cari ascoltatori, le 9-8 minuti. Come preannunciato, andiamo in onda fino alle 9.30 anche oggi, poi domani, poi basta. E allora, parliamo appunto di salute, parliamo di questa vicenda, abbiamo sentito anche Sebastiano Barisoni nei 100 secondi, dei 208 esami, la lista della cosiddetta inappropriatezza, cioè gli esami che secondo il Ministero della Salute i medici prescrivono, ma che talvolta vengono prescritti perché vengono prescritti inutilmente, diciamolo, traduciamolo in maniera brutale. Inutilmente non perché i medici siano incapaci e quindi vogliono farci fare degli esami così, ma inutilmente perché tante volte un esame viene prescritto per quella che è la cosiddetta medicina difensiva. D'altronde come scrive oggi Gian Antonio Stella, dati pubblicati dalle associazioni di assicurazione, in 20 anni sono più che quadruplicate le cause da parte di cittadini che si rivolgono ad avvocati e portano dei medici in giudizio perché li accusano di malpractice, cioè di pratiche fatte male, di non averli curati bene. E allora cosa succede? Che tante volte un medico cosa fa? Prima di evitare qualsiasi accusa di non aver fatto un esame, ti prescrive subito un esame. Il risultato è che tutto ciò è a costo dello Stato. Allora il Ministero vuole risparmiare. Ha messo una lista di 208 prescrizioni mediche, di esami medici, che adesso non possono essere più rimborsati, o meglio verranno rimborsati solo se si rispettano alcuni canoni. I medici sono già sul piede di guerra. Intanto saluto il professor Silvio Garattini, direttore dell'Istituto di Ricerche Mario Negri. Buongiorno, professor Garattini. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, il professor Garattini è un noto farmacologo mondiale che più volte ha detto anche a questi microfoni che molti dei farmaci in commercio non servono a nulla. Quindi, voglio dire, è uno pronto anche a fare mea culpa nei confronti della categoria. Anche moltissimi esami non servono a nulla. I medici che si fanno, professore? Sì, certamente. C'è una grande necessità di appropriatezza, cioè la nostra società è troppo medicalizzata, per qualsiasi cosa si ricorre immediatamente a esami di tutti i tipi e a tutti i livelli di complessità, si ricorre a farmaci, si ricorre a interventi che molto spesso non hanno necessità. Ci faccio un esempio, perché guardi, basta vedere qual è l'esame che viene prescritto più facilmente. A parte quello, l'esempio migliore che io posso fare è guardare alla spesa farmaceutica delle varie regioni, la spesa pro capite. È impossibile che in Campania si spenda il 30% di più rispetto al Veneto. Cioè, questa è già un'idea che c'è inappropriatezza, perché non è che le malattie siano molto diverse una volta che la spesa, una volta diciamo che questi dati sono pesati per categoria e per età del paziente. Sì. Quindi questa è già un'indicazione che c'è uno spreco, c'è qualcosa che non va. Se lei guarda per esempio alle prescrizioni, come mai si devono prescrivere farmaci che sono molto costosi con lo stesso meccanismo di farmaci invece che sono molto meno costosi? Basta pensare all'esempio nel campo delle statine o all'esempio nel campo dei farmaci antipertensivi, nei sartani. Cioè, questa è inappropriatezza. E questo si può vedere anche, noi siamo il paese in cui si fanno più TAC di qualsiasi altro paese. Ecco perché Repubblica appunto cita che la risonanza magnetica e la TAC sarebbero i due esami risonanza nucleare magnetica, cioè non è secondo me appropriato che un medico come prima istanza chieda la risonanza nucleare magnetica. Sì. Un medico chiede di fare luce su un certo problema patologico, poi spetterà al radiologo, spetterà agli specialisti stabilire se basta fare una semplice radiografia o se invece ci vuole qualcosa di più complicato. Sì. C'è una scalarità in queste cose. Questo certamente. Quindi c'è però il problema, ma qui professor Garattini voglio introdurre il mio secondo ospite, il problema della cosiddetta medicina difensiva, cioè i medici dicono... Hanno ragione. Esatto, molto spesso lo facciamo perché poi sennò veniamo subissati di cause, ed è vero, ci sono assicurazioni che si rifiutano di fare le assicurazioni ai medici ormai. Saluto Giacomo Milillo, segretario generale della Nazionale della Federazione Italiana Medici di Famiglia. Buongiorno. Milillo, cioè rappresenta i medici di famiglia in Italia. Sì. Allora Milillo, intanto perché avete già manifestato l'idea di fare uno sciopero? Quando io sento scioperiamo mi sembra subito la reazione più sbagliata, non so se ho fatto male io, però ci spieghi. Sì, le spiego, perché intanto lo sciopero non è focalizzato su questo decreto, lo sciopero è il risultato, è una mobilitazione già avviata che durerà tutto l'autunno e prevederà anche delle manifestazioni e che culminerà con uno sciopero fine novembre, probabilmente, perché la condizione, l'esasperazione dei medici di fronte al modo in cui viene gestito il Servizio Sanitario Nazionale E le faccio un esempio semplicissimo a proposito di inappropriatezza. Adesso si incriminano i medici e li si sanziona perché chiedono troppe risonanze magnetiche. Sì. Però la gente deve sapere che il territorio italiano è il territorio in cui c'è la maggiore densità di risonanze magnetiche comprate dalle aziende sanitarie, più di tutto il resto del mondo. Ah, quindi lei dice perché perché ci sono tutte queste risonanze se non servissero? Allora il problema è che trovare il capro espiatorio in una proprietà che sicuramente va perseguita, come dice il professor Garattini, è difficile obiettare, certamente ha ragione, ma come si raggiunge questa proprietà? Sì. Nel campo dei farmaci, per esempio, si è raggiunto attraverso un lavoro continuo, nei contratti e nelle convenzioni ci sono le commissioni per la proprietà che seguono le indicazioni o verificano. Però, vabbè, certo, diciamo, quindi lo sciopero viene, questa è la classica goccia che si va a montare in un secchio già quasi pieno. Esatto, questo. Esatto. Però Milillo, mi faccia capire, è vero, qui mancano gli avvocati, perché oggi Gian Antonio Stella nel suo articolo tira in ballo anche gli avvocati. Se ci sono tante cause vorrà dire che ci sono degli avvocati che appoggiano e portano avanti queste cause. La medicina difensiva è un problema? Cioè c'è la paura quando un medico gli arriva una persona a dire oh mamma mia, questo è meglio che gli faccio fare subito un attacco perché sennò domani mi fa una causa dicendo che non gliel'ho fatta prescrivere? Assolutamente sì, perché intanto il medico è punito anche se non è condannato, perché una causa è comunque un peso, è un costo per il medico. E poi abbiamo sentenze, per fortuna più rare delle denunce, sentenze in cui il medico viene condannato perché ha omesso accertamenti presenti in linea guida, oppure è condannato perché non ha fatto accertamenti che sono esclusi dalle linee guida, perché il giudice dice comunque qualsiasi cosa dice la legge, qualsiasi cosa dice la linea guida, tu devi fare quello che è giusto per il paziente. Quindi c'è purtroppo questo timore. Però una cosa va detta, che non, i 13 miliardi sono delle stime naturalmente sarebbe molto la stima complesse. Del costo della medicina difensiva, cioè di quanti esami vengono fatti per paura dai medici di eventuali cause future. 13 non miliardi confuso, di euro è una non stima. Va confuso con il costo della proprietà, perché nella legge si parla di 100 o 180 milioni, adesso mi sfugge, ma comunque di una cifra. Però vorrei dal professor Garattini un giudizio sulla medicina difensiva, che ci dice il dottor Milillo c'è, e poi anche professore, ma in fondo il principio di volere risparmiare in un settore di sanità che prende l'80% dei bilanci di ogni regione è un principio giusto di per sé, quindi la linea guida del governo, o proprio hanno sbagliato del tutto, professore? Sì, no, sulla medicina difensiva penso che qui bisogna porre fine a questo scandaloso tipo di intervento che è stato pubblicizzato anche in televisione. Se hai qualcosa di cui lamentarti, vieni da me, avvocato, non avrai costi. E perché poi insomma ci arrangeremo su quello che viene alla fine, cioè penso che queste non cose le piace, qui non le piace. Fanno loro lavoro, non devono esistere e devono essere assolutamente condannate. Il medico d'altra parte deve secondo me assumere la sua dignità e le sue capacità e fare quello che si ritiene più Vabbè, però cioè, a lei dà fastidio la pubblicità degli studi legali, non il fatto che si possa fare una causa. Certamente, però diciamo la pubblicità è una indicazione di una forma di consumismo, e cioè di volontà di intervenire anche dove magari non c'è nessuna ragione per intervenire. Bisogna dire che da questo punto di vista però c'è un'azione che sta facendo il Ministero, e cioè che è quella di fare in modo che la dimostrazione che non ci sia la difesa da parte del medico, ma che la dimostrazione del danno subito debba venire da parte di chi accusa, di chi dice di aver subito. Sì, l'inversione dell'onere della prova, cioè esatto, è il paziente che dovrebbe dimostrare questo, in verso questa direzione si va, il paziente deve dimostrare di aver subito un danno dal medico. Esatto, e questo naturalmente è qualcosa. Se poi si riuscisse finalmente a fare un'assicurazione da parte dello Stato per tutti i medici che operano nel Servizio Sanitario Nazionale, probabilmente questo servirebbe molto anche a stroncare tutti questi interventi che sono veramente assolutamente e il principio di per sé, il principio economico che spinge sanità, il governo. Secondo me in sanità non vale, non può valere il principio del risparmio, anche se le risorse evidentemente non sono infinite, ma sono finite. Quindi non, però non deve essere il principio del risparmio, secondo me deve valere il principio di fare soltanto le cose che hanno una documentazione scientifica valida di efficacia. Sì. Se si fa questo, si risparmia automaticamente, perché la maggior parte delle cose che si fanno ancora oggi sono delle cose che non hanno nessuna base scientifica. Basti pensare che nei LEA abbiamo ancora il rimborso delle cure termali. Ora, diciamo, se vogliamo cercare di essere obiettivi, quali sono le basi scientifiche? E quali sono le basi scientifiche di tante altre cose che si fanno, di tanti interventi che poi in realtà, se non vengono fatti non cambia nulla, ma se non vengono fatti portano automaticamente a un risparmio. Sì, ricordiamo, i LEA sono i livelli essenziali di assistenza, cioè quelli poi rimborsati dal ministero, che però sono ancora quelli del 1996. Ci sono, insomma, anche le terme, anche qui bisogna che ci sia una certa tempestività nel fare le revisioni di questi livelli essenziali di assistenza, perché le cose cambiano con il tempo e con le conoscenze. Vorrei sentire Francesco da Milano che ci chiama all'800 24 0024. Eccoci Francesco. Buongiorno. Buongiorno. Io sono un pilota professionista, facevo le visite pilota di aeroplani, sì. Pilota civile. Le visite per il rinnovo della mia idoneità fisica le facevo Svizzera per motivi amministrativi, cioè perché non c'era ancora una certificazione delle strutture mediche italiane, le facevo in Svizzera. Nel 2008, il mio medico che mi visitava in Svizzera a pagamento, guardandomi negli occhi e sentendomi respirare, mi ha detto: lei ha una polmonite. Sul momento, nel suo stesso studio, mi ha fatto un esame del sangue particolare, una lastra, e mi ha confermato questa diagnosi. Sì. Quindi mi ha sospeso l'idoneità fisica, mi ha dato un antibiotico, mi ha detto: torni fra 20 giorni. Io a Milano sono andato da un primario, da un luminare di pneumologia, a farmi visitare per mia tranquillità. Che gli ha detto? Questo signore mi ha prescritto un TAC al torace. Cioè subito? Che io sono andato a fare, ovviamente, a spese del Servizio Sanitario Nazionale. Quando poi sono tornato 20 giorni dopo in Svizzera dal medico per farmi ricertificare l'idoneità fisica, ho portato questo referto e questa TAC. Il commento di questo signore è stato: ma le hanno fatto fare una TAC per una polmonite? Ma che ne so, io sono andato da un pneumologo. No, per dire, questo racconto di vita vissuta... Lui mi ha detto: se io prescrivessi una TAC su una polmonite a un soggetto che non ha un tumore al polmone, mi cacciano dalla cassa malati, che è il loro Servizio Sanitario Nazionale. Cioè lui dice: da noi è ammessa soltanto su soggetti che hanno un tumore, altrimenti non possiamo prescriverla. Ora, questo dice che 10 anni fa questa cosa qua... 10 anni fa, non lo so, la ringrazio per la testimonianza. Professor Garattini, lei ha conoscenza adesso Svizzera, Italia... Sì, certamente in molti altri paesi, poi non parliamo dell'Inghilterra, in molti altri paesi ci sono molte restrizioni sulle analisi e su quello che si deve fare, insomma non c'è questa grande, enorme libertà d'azione per cui si può fare qualsiasi cosa, basta che venga prescritta. Io vorrei capire, Milillo, hanno presentato questo decreto, questa lista, l'hanno presentato ai sindacati, appunto da quel momento è successo il putiferio. C'è la possibilità, secondo voi, che si possa cambiare dal punto di vista del governo, oppure li vede molto renziani in questo, cioè si fa e basta? Prima però vorrei intervenire sull'esempio portato, perché io potrei portare decine di esempi di TAC che hanno rivelato tumori in persone che avevano processi infiammatori. Allora, non si può fare la TAC nel momento in cui c'è il tumore, perché a volte la TAC serve a rilevare un tumore. Però detto ciò, il problema fondamentale non credo che sia la posizione del governo, il problema fondamentale è la posizione della conferenza delle regioni. la volontà, noi non siamo contro l'appropriatezza, e se il Ministero indica dei parametri di appropriatezza ci fa un bel regalo. Il problema è che, come diceva anche il professor Garattini, anche l'appropriatezza cambia nel tempo e non può essere amministrativa, è un atto professionale, sì. L'appropriatezza. Allora, se il governo con una punta di orgoglio, invece di appiattirsi su quelli che sono i ricatti della conferenza delle regioni, toglie il sanzionamento e fa una politica ragionevole e complessiva di appropriatezza e di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, avrà tutti i medici con il governo dalla sua parte. Qui in questo momento il Ministero della Salute è messo in mezzo da, e il governo sono messi in mezzo da un patto per la salute, la cui responsabilità, ricordiamo che le regioni hanno considerato questo provvedimento del sanzionamento irrinunciabile nel patto per la salute, quindi la responsabilità va attribuita a chi veramente ce l'ha. Allora, Salvatore della provincia di Milano ci chiama, buongiorno Salvatore. Sì, buongiorno, grazie per avermi richiamato. Lei, grazie. E io volevo portare la mia testimonianza, in quanto sono uno di quelli che spesso nel senso ogni uno o due anni faceva gli esami del sangue, che adesso con questa nuova legge che entrerà in vigore sono considerati forse inutili. Ma forse vanno a toccare anche l'esame del sangue, perché si parlava del controllo del colesterolo, eccetera. Vabbè. In pratica io, facendoli periodicamente ogni uno o due anni, ho scoperto all'età di 50 anni di avere una sorta di leucemia, per puro caso. Cioè facendo questi esami, quelli lei dice, sostiene invece l'importanza di questi esami. Di fare i controlli anche che sono ritenuti inutili, cioè quelli per vedere se uno magari ha un stato, c'è colesterolo alto. No, chiaro. Io facevo per vedere se avevo colesterolo alto. Certo. Fare altre cose, il mio medico includeva pure il livello dei globuli bianchi, tutte le altre cose. No, Salvatore, detto che ovviamente mi spiace che abbia scoperto attraverso questi esami questa malattia, però professor Garattini, per concludere, non so se anche gli esami del sangue vengono inseriti. No, ma di questi 208 esami, la maggior parte, la stragrande maggioranza, sono esami di genetica, che non sono, diciamo, fondamentalmente di competenza del medico di medicina generale, sono di competenza specialistica. Che non si sparga la notizia che poi neanche i controlli del sangue. Perché, da questo punto di vista, però, io credo che in quello che ha detto il dottor Milillo ci sia una parte che va sottolineata, cioè che vanno bene i decreti, perché ogni tanto bisogna anche far sentire la voce per mettere un punto fisso, però io credo che il lavoro principale che deve fare il Ministero, che devono fare le regioni, è un problema di cultura, di aiuto al medico. La medicina è diventata estremamente complessa, bisogna aiutare il medico a migliorare le sue conoscenze. Questo lo si fa attraverso un lavoro attento di informazione, di formazione. Perché è una cosa che manca. Manca anche perché la medicina va sempre avanti. Mi perdoni se la interrompo qui, professor Garattini, ma devo davvero chiudere e rinnovarvi l'appuntamento a domani alle 6:30 con 24 Mattino.